noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma è un giorno importante, sicuramente grandissima responsabilità, c'è la consapevolezza da parte mia che c'è da lavorare, sarà un lavoro duro, perché questa è una squadra che ha 16 nazionali, è una squadra che ha l'età media di 21 anni ed sono giocatori che hanno fatto qualcosa di importante. Qua c'è tutto per lavorare. Noi guardiamo sempre palla, tempo e spazio, i concetti sono quelli. E noi dobbiamo lavorare su questi concetti che noi abbiamo, quello che abbiamo fatto in questi 5 mesi in primavera. Dopo quello che ho visto, non ho visto, non voglio, non sono i miei problemi. Dunque abbiamo pizzicato al volo Rino Gattuso, grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, queste le parole pronunciate da poco perché Gattuso sta ancora parlando nel giorno della sua presentazione in rossonero. Vi facciamo sentire anche che cosa ha detto a proposito del suo predecessore Vincenzo Montella. Vincenzo ama il calcio partire da basso, gli piace il palleggio, anche a me piace il palleggio, però dopo un po' dobbiamo gli ultimi 20-30 metri andare a verticalizzare, andare a creare qualche movimento con gli attaccanti e provare a sorprendere un po' gli avversari. Beh, cronaca, viviamo su questi motivi in questi giorni di tutti convocati. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Benissimo, anche perché sai che abbiamo convocato nel primo giorno di scuola di Gattuso oggi? Lo so. Lo sai, eh? Dillo tu che a me viene da dire. È un mio amico, credo, possiamo amico, dirlo? Sì, è un tuo amico, Brocchi. Sì. Professor Cristian Brocchi, proprio lui. È proprio lui. Buongiorno Cristian Brocchi. Ciao, buongiorno a voi. Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Comincia tu, Pierluigi. Comincio io. È la scelta giusta? Ma in questo momento sicuramente sì, perché la squadra ha bisogno di cambiare dal punto di vista dell'approccio alla gara, della mentalità, e in un momento di difficoltà sicuramente, anche se stava secondo me migliorando dal punto di vista del gioco, però gli mancava sempre un qualcosa dal punto di vista magari emotivo, morale, così. E Rino è uno di quelli che sotto questo punto di vista sa trasmettere molto alla squadra, e probabilmente in questo momento più che un discorso tecnico-tattico c'è bisogno di un discorso di questo tipo. Ma Cristian, però dopo Allegri, Sedro, Finzaghi, Mihajlovic, tu, Montella e adesso Gattuso, dal 2013 a oggi, quindi in un pugno di stagioni, in un pugno di giornate, in un pugno di anni se vogliamo, quando troverà pace questa squadra? Quest'anno si è fatta un po' una rivoluzione sul mercato, si sono comprati diversi giocatori, ma non sempre purtroppo comprare tanti giocatori vuol dire vincere, perché comunque le squadre, quelle che stanno ottenendo i risultati, sono quelle che hanno uno zoccolo duro, sono quelle che hanno programmato da diverso tempo una crescita e adesso stanno ottenendo dei risultati. Il Milan sicuramente, avendo cambiato tanto, ha trovato più difficoltà a livello di risultati di quanto se ne pensasse inizio stagione, quando magari si pensava che bastasse comprare dei giocatori per poter risolvere le situazioni. In realtà è un lavoro lungo e sì, la speranza è quella che poco alla volta si riesca a mettere dentro qualcosa per ritrovare quella serenità che poi ti permette di ottenere risultati. Sì, sembra una strada lunga. Il passato, nel senso, ieri c'era da sorta attività, a me sembra voi, ovviamente parlo di Cristian Brocchi, di Clarence Seedorf, di Filippo Inzaghi, di tutti quelli che ci sono stati in questi anni, avete fatto poi alla fine benino, secondo me, in assoluto, ma è chiaro che c'è un peso così ingombrante del passato che rischia di diventare un boomerang. Ma questa è la difficoltà nell'essere il Milan come nell'essere squadre di primo livello. È normale che in questo momento qui tutti si ricordi sempre il nostro Milan, il Milan che andava a vincere in Europa, il Milan che otteneva dei grandissimi risultati, e quindi si vorrebbe riottenere dei risultati importanti, ma purtroppo non c'è più quella squadra, non ci sono più quei giocatori che avevano fatto la storia, ma bisogna ricreare un qualcosa. Senti, per ricreare qualcosa di importante c'è bisogno di programmazione e tempo, e in questo momento qui di tempo ce n'è poco. Ma non, nelle grandi squadre ne hai sempre abbastanza poco, eh. Poi dipende dai risultati, è ovvio, però quando vai a parlare di pazienza ai tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus, dei New York Knicks o di tutte le grandi squadre del mondo, diventa difficile poi parlare di pazienza, perché se vai da un fallimento all'altro la pazienza diventa sempre meno e il peso sempre di più, quindi quella panchina diventa sempre più scomoda. Assolutamente sì. Ed è così, e l'hai provato sulla tua pelle, lo sai perfettamente, perché entrare dentro a quello stadio e sentirti gli occhi addosso, io immagino, ma lo domando a te, la pressione che senti è tantissima. Sì, anche se la mia è stata una situazione diversa, perché io sono entrato a 6 giornate dalla fine in un momento di grandissima comunque difficoltà, e quindi il tempo per lavorare è stato veramente poco, e quindi è stato diverso. Io penso che l'anno scorso Vincenzo abbia fatto comunque un buonissimo lavoro, e purtroppo quest'anno ha avuto dei problemi di risultati, allontanandosi così dalle dirette concorrenti, anche se magari io dico sempre che palo dentro e palo fuori ti cambia un po' la vita. Anche l'altro giorno, sì. Esatto, e l'altro giorno poteva benissimo vincere la partita col Torino 1-0 e magari avere davanti delle partite più semplici da gestire in questo momento per poter fare dei risultati importanti. Ma come dice il mio amico Pardo, il calcio è liquido. Esatto. Come dice Ciro Ferraro, se non sbaglio, lui l'ha inventato il diavolo. Tu hai credo ancora un feeling con Berlusconi. Non è un mistero che Berlusconi avrebbe lasciato la panchina. Tu hai fatto una scelta diversa, perché? Perché, come ho sempre detto, secondo me, proprio per quello che abbiamo detto quello che stiamo dicendo, in queste parole, no? Quando tu alleni una società importante come il Milan, è già di una grandissima responsabilità e un peso molto grosso. Per affrontare tutto questo devi essere sostenuto, devi poter lavorare con supporto, con sostegno, e con sapendo che le difficoltà le affronti avendo le spalle un po' più larghe. Se sei un allenatore giovane che per ogni minima cosa può essere messo in discussione, devi avere alle tue spalle una società forte che ti tutela, ti sostiene e ti aiuta. In quel momento lì io pensavo non fosse così. Per amore del Milan ho preferito fare la mia scelta, andare via, liberare il presidente da un qualcosa che comunque lui voleva fortemente, nel quale lui credeva, però non mi sembrava giusto nei confronti di una società che amo e dei tifosi che mi hanno dato tanto in quegli anni lì, continuare in un clima che non poteva essere idilliaco per la squadra per cui tifo. Rino, come lo vedi? Nel senso che lui è vero, ha avuto, è inutile nasconderlo, ha avuto anche dei fallimenti nei primi anni della sua carriera da allenatore, però quello dicevo anche ieri, ha allenato onestamente in delle realtà molto complicate. Zamparini, sappiamo che non è esattamente il presidente più semplice per gli allenatori, ha allenato in dei posti abbastanza assurdi, ha fatto delle scelte che il suo ex procuratore Andrea D'Amico, abbiamo parlato tante volte, forse non erano neanche ragazzuto, no, proprio aveva voglia di misurarsi perché aveva talmente tanta passione, per cui anche se era un campione del mondo, un giocatore straordinario, è andato in dei posti abbastanza assurdi, con tutto il rispetto per Creta. Per Creta, eccetera. Sì. Quindi, quindi è la sua prima vera occasione, ma come lo vedi? No, ma io penso che a differenza mia lui abbia sicuramente un qualcosa dal punto di vista mediatico, è sicuramente più forte, più tutelato, più probabilmente anche più rispettato. Da un punto di vista dei tifosi hanno sicuramente una grandissima stima di lui per quello che ha fatto, per quello che ha dato a questa maglia, quindi sicuramente lui avrà un aiuto che è maggiore. Poi dopo è normale, i risultati faranno la differenza, diranno se le cose possono andare avanti come io spero. Io spero veramente che degli episodi, anche un po' magari un po' di fortuna, che quella aiuta ogni singolo allenatore, possa veramente guardarlo e possa veramente far sì che lui possa far bene come allenatore, soprattutto per il bene suo, ma per il bene del Milan, che merita di ritornare ad essere è la società che lotta per obiettivi importanti. Eh sì, questo è quello che chiede la gente del Milan ormai a gran voce, ormai da lungo tempo. Cri, ti chiedo altri tre minuti, sentiamo il traffico, poi ancora una domanda da parte mia, una di Pardo, 800240024 se volete intervenire. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Oggi mi sembra riduttivo che ancora parliamo del Rino Gattuso calciatore. Sicuramente lo spirito, il fatto che se gioco anche con mio figlio e gioco a calcetto non voglio perdere, quella mi è rimasta. E io sono passato a Coverciano. Non me l'hanno regalato il patentino. Ho studiato. Le partite non si preparano solo con cuore, grinta e cattiveria. Cioè, bisogna avere conoscenze, preparare le partite. E per questo che mi sembra riduttivo. E penso che bisogna avere grande senso d'appartenenza, bisogna partire da là. E con un concetto ben preciso, che per giocare a calcio bisogna far fatica. Questo di nuovo Rino Gattuso, abbiamo con noi per altri pochi minuti Cristian Brocchi, cui io voglio chiedere una cosa sul suo presente. Cristian, adesso lavori con Capello, no? Al Jiangsu Suning in Cina, squadra di Suning. Ti chiedo come vanno le cose lì, come ti trovi, com'è questa esperienza, e poi insomma di Capello si è fatto il nome in tutte le salse, da CT della nazionale a presidente della Federcalcio. Io sinceramente dovessi sceglierlo vedrei la presidenza Federcalcio. In tutta onestà, ma questa è una valutazione mia, ti chiedo di rispondere a queste tre cose a partire dall'esperienza cinese. Ma l'esperienza cinese è sicuramente una bella esperienza, perché è una palestra di campo importante. Quando un allenatore scende in campo e allena, comunque deve portare le sue idee, deve far sì che i giocatori lo seguano. Questo è anche più difficile, perché a livello comunicativo non è semplice, quindi è una bella palestra. Sono molto contento di questa esperienza, sono molto contento perché poi sono andato con un allenatore come Capello, che è un po' la chiusura del mio percorso formativo, perché essere al suo fianco costantemente ogni giorno mi aiuta a capire dove magari posso migliorare, dove devo migliorare, dove già in questi mesi ho imparato veramente tanto da lui. E è una fortuna per me che lui abbia scelto me come compagno di questa avventura, perché oltre ad essere un onore è per me un qualcosa di importante veramente, che mi porterò dietro per il resto della mia carriera. Per quello che invece il suo ruolo e quello che sarà, sicuramente è una persona che sa di calcio. Io in questi mesi ho potuto vedere da vicino quello che è il suo modo di pensare, il suo modo di valutare le squadre, i giocatori, e devo essere sincero, più di una volta mi ha stupito in qualche sua considerazione, perché ho capito veramente la differenza tra un allenatore normale e un grande allenatore come lui. Quindi a prescindere da quello che uno possa preferire, no, in un ruolo o nell'altro, io penso che lui possa essere adatto in ambedue le situazioni, perché se dovesse essere il CT è un gran conoscitore di calcio, ma soprattutto un gran conoscitore di giocatori, perché lui quando vede un giocatore lo valuta, lo sa mettere al posto giusto per mettere in risalto le sue caratteristiche, e difficilmente sbaglia la considerazione sul giocatore. Se invece dovesse essere scelto chiesto per un altro ruolo, io penso che abbia la professionalità e le conoscenze per poter far tutto. Bravissimo, parole perfette, sono d'accordo. No, ma lui a parte le battute, le imitazioni, qual è la cosa più incredibile? Forse la semplificazione, cioè il fatto che riesce a essere proprio molto razionale nelle scelte. Anche il carisma, sì, dai. Sì, sì. No, lui ha un grandissimo carisma, è un leader assoluto, è un allenatore per essere forte deve essere leader. Lui è leader in assoluto, non si fa mettere i piedi in testa a nessuno, non scende a compromessi, è una persona che sa fare molto bene il suo lavoro, ma ha veramente quello che mi stupisce di più è proprio come lui riesce a classificare un giocatore, a tirarne fuori i lati positivi, a mettere in risalto quelle che sono le sue caratteristiche, e a volte magari a fare una scelta che magari potrebbe sembrare strana, ma in realtà poi ha dei risultati ottimi. Grazie Cristian, bocca al lupo. Ciao Cristian Brocchi, grazie davvero, è stato un piacere e anche insomma una bella notizia, no? Che abbiamo dato Pardo, una bella chiacchierata ai tifosi del Milan e non solo, perché Capello è un patrimonio del calcio italiano che secondo me non va assolutamente disperso. No, e Capello, ci stiamo Capello provando. È una persona veramente affascinante, proprio è una... Devo dire, ho avuto modo insomma di conoscerlo, di frequentarlo un po', di andarci a cena, ovviamente con dei ruoli che sono molto diversi, un conto a fare giornalista, un conto a fare allenatore, però una persona, a me ha colpito molto di lui la sua capacità di essere un uomo di calcio, ma non soltanto un uomo di calcio, me lo ricordo nel periodo in cui faceva le telecronache per la Rai, che veniva a cena con i giornalisti, sembrava veramente uno di noi, e questa cosa qui non è banale, perché ti dà proprio l'idea di una persona, innanzitutto con una visione delle cose e degli interessi a 360 gradi che lo rendono interessante, stimolante, attraente, e però anche con un segno di intelligenza, secondo me, cioè in quel periodo lì in cui lui faceva il commentatore, lui si era perfettamente calato in quel ruolo lì, no? Vabbè, poi calcisticamente insomma è stato un grande. A me dispiace molto per l'esperienza inglese al mondiale, perché lui si era arrivato con grandissima slancia, ha vinto 9 partite su 10 se non sbaglio nel mondiale in Sudafrica, primo pareggio con l'errore del portiere, mi ricordo dei titoli di giornale incredibili, ho capito veramente che la stampa inglese, cioè se quello significa essere giornalisti con la schiena dritta, preferisco una schiena un po' storta, nel senso che c'era una serie di critiche essenzialmente preconcette, integralismo, che non era inglese, ha fatto un pareggio giocando male, ma essenzialmente per un errore del portiere, dopo un percorso con 9 vittorie in 10 partite. No, ma si tengano Hodgson, che problema c'è? Roy Hodgson sta facendo bene, vediamo. Poi facciamo i conti. Intanto, visto che non c'è l'Italia al mondiale, salutiamo un campione del mondo, nonché ex rossonero, nonché ex azzurro, nonché profondo conoscitore di calcio, che ancora frequenta perché non ha smesso di giocare, come Cristian Zaccardo. Ciao Cristian. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. L'uomo di Formigine, diciamo il formiginese più famoso della storia, no? Sì, dopo Nosotti, certo. No, prima di Nosotti. Insieme a Nosotti. Ma il noso al bar si vede, al bar di Formigine. C'era anche, ma è vera questa storia del matto di Formigine, la possiamo dire? Nosotti racconta che c'era un matto a Formigine in piazza. È una leggenda da verificare. Nosotti Marco, te lo presento se vuoi. non era lui il matto, c'era uno ancora più matto. Senti Cristian, a proposito di matto, no, però è chiaro, argomento di discussione, abbiamo parlato ora con Brocchi, lo facciamo anche con te. Gattuso al Milan, sì, no, forse, vediamo. Ma tra un paio di mesi sapremo il risultato di come è stata questa scelta da parte dei dirigenti del Milan. Io conosco personalmente molto meglio Rino Gattuso che Vincenzo Montella, quindi sono legato sentimentalmente più a Rino. È una bella responsabilità, entra in un periodo dopo tanti anni che il Milan non sta andando bene, di risultati negativi, ha tantissima pressione adesso, però ha allenato da qualche anno e spero che riesca a migliorare i risultati, perché il Milan è troppo tempo che non sta ottenendo quello che è il suo blasone. Ci hai fatto caso, Pierluigi, che gli ultimi N allenatori del Milan sono ormai tanti, insomma, immolati quasi su quell'altare così prestigioso, sono tutti ex giocatori? Vabbè, sì, da Leonardo Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso e il prossimo? Beh, innanzitutto è abbastanza normale, perché è chiaro che adesso beh, insomma, voglio dire, Fabio Grosso allena Bari, tanto per fare un altro esempio, è chiaro che è tempo di quella generazione lì del 2006, quindi ci sta secondo me che allenino. Nel caso del Milan devo dire che forse qualche volta è stata anche un po' una scorciatoia, nel senso che non si riusciva a fare una vera e propria rivoluzione di fondazione tecnica, e allora si è provato a mettere dei nomi altisonanti, penso a quello di Seedorf, penso a quello di Pippo Inzaghi, e la cosa non ha funzionato, e adesso è diverso, perché quest'anno il Milan ha speso tanto. Il vero paradosso del Milan, ne vorrei sentire anche Cristian, sembra aver comprato troppo, poi dall'altra parte del famoso naviglio c'è una squadra che ha comprato poco, e che ha fatto del comprare poco e dell'avere una rosa non così grande, complice anche l'assenza dalle coppe europee, un elemento vincente. È in questo la sostanza. Troppi giocatori non aiutano a certe volte, Cristian. Ma indubbiamente quest'anno hanno cambiato tanto, 9 undicesimi della squadra, 8 undicesimi della squadra sono nuovi giocatori, e quindi il monte ingaggi che hanno adoperato ha elevato le spese economiche del Milan di lunga maniera. Secondo me hanno comprato ottimi giocatori, però in questo momento purtroppo la realtà è che non c'è nessun top player. Io vedo l'unico top player del Milan è il portiere Donnarumma, e spero che il prossimo anno non dovrà essere sacrificato perché il Milan non arrivi nelle coppe. E quindi secondo me c'è ancora da fare, non è ancora una squadra, ci vuole tempo, però è diversi anni che i risultati non arrivano. Quest'anno è stato speso abbastanza, però ancora non è servito, e io spero che Gattuso possa dare una scossa, perché c'è bisogno di una squadra. Sì. Adesso sta facendo bene, si era perso e si è tornato in carreggiata. C'è bisogno delle due squadre milanesi che ritornano nel top, sì, in questo, Italia, che loro. Certo, credo, questo per il bene del calcio, non tanto per interessi di partito, che per me è Pardo, chi se ne frega, però per il bene del calcio c'è bisogno di una Milano forte, come c'era bisogno di una Juventus forte. Ultima cosa, ma le difficoltà invece da difensore, le difficoltà di Bonucci come te le spieghi? È abituato a vincere tutte le partite e a giocare con una squadra molto più forte, molto organizzata, e quindi era paradossalmente molto più semplice. È andata in una squadra dove, diciamo, a fare il leader era il capo espiatorio sia nel bene che nel male. All'inizio sembrava tutto rose e fiori con la qualificazione all'Europa League, poi dopo sono arrivate un po' di sconfitte, un po' qualche prestazione fatta male, quindi ha avuto un peso con critiche molto importanti, quindi non è facile. E dopo, quando non sei sostenuto neanche da gioco della squadra, dai risultati della squadra, entri nel tunnel, quando sei dentro al tunnel fai fatica a uscire. Però parliamo di ottimi campioni e ci vorrebbe qualcuno che li facesse estrapolare da queste critiche o risultati negativi e li facesse comunque tranquillizzare, sì, sì. Non fargli perdere la lucidità, perché se perde la lucidità anche i campioni vanno in difficoltà. Certo, sì. No, ma è verissimo, verissimo. Grazie Cristian, grazie davvero. Okay, ciao, grazie a voi. Ciao, alla prossima. Il noso, salutamelo, il noso e anche il matto di formigine. Il matto di formigine, secondo me, potrebbe essere lo stesso Nosotti o Leo Turrini in trasferta. Che potrebbe essere. Dice che diceva: sei una bella anima. Sei una bella anima, con la voce così un po' soffiata, no? Tu sei una bella anima. Passiamo a noto, glielo chiediamo. Sì, sì, ma glielo chiediamo, anzi, lo convochiamo a stretto giro di posta, tanto è sul pezzo anche. Ovviamente. Gli mando un WhatsApp, vediamo se si svegli il vecchio nome. Senti, sentiamo domani io te. Ah sì, così mi lasci. Come vuoi, mio caro. Tu arriva Marino, arriva Leo Turrini, arriva il matto di formigine. Infatti lo stiamo cercando il matto di formigine. Vedrai che te lo trovo, Pardo, ti faccio una sorpresa. Ci sentiamo domani con te, torniamo subito a 800240024 se volete intervenire. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. ragazzi, questa la dedico a voi, cioè a Marino Bartoletti e a Leo Turrini, questo pezzo di arte contemporanea in musica, With or Without You. Without I can't really imagine, per dirlo in inglese, quindi with, con Marino Bartoletti e Leo Turrini. Ciao ragazzi. Marino, si festeggia il trentennale dei With or Without, se non ricordo male. Vabbè, dai, subito sono statistici. Non mi umiliare così. Non mi umiliare in questo modo. Turrini, no, buongiorno. Ti ringrazio. No, grazie a voi. Volevo dirvi che, nel caso vi fosse sfuggito, Marino Bartoletti conosce a memoria The Joshua Tree. L'album dal quale vabbè, ci mancherebbe altro. Chi non conosce The Joshua Tree, scusami. Voglio dire, ma c'è di più: che Marino Bartoletti conosce a menadito anche l'intera discografia di Franco I, Franco IV. Vorrei citare dalla coda nella quale mi trovo, sto appero con mano, poi vi spiego perché. Ho scritto T'amo sulla sabbia, no? Una hit indimenticabile, che era quella che Fassone e Mirabella avevano vergato per Montella, avete capito, insomma, no? Mirabella, cioè, il signor Mirabella, come si il signor, no, Mirabella mi sembra corretto, no, ma volevo prima di, insomma, di entrare su questo argomento con un ascoltatore, così spezziamo questo momento di così grande romanticismo. Cioè, volevo chiederti, Leo, visto che prima parlavamo con Compardo e Zaccardo del Matto di Formigine, io ho avanzato sospetto che potessi essere tu in trasferta. No, beh, il Matto di Formigine dai tempi della scuola era Nosotti. Ah, era Nosotti. Un grande collega di Sky, eccetera, che veniva con me al liceo classico Muratori. All'epoca noi vivevamo veramente alla periferia del mondo, adesso il Sassuolo è in A, per quanto ancora non so, ma all'epoca giocavamo contro Crevalcore e Baracca Lugo, il club per il quale Marino Bartoletti ha sempre fatto il tifo. E quindi il vecchio Noso veniva con me in treno nel capoluogo, ed era detto il Matto di Formigine perché declamava con la voce di Gassman, no? Interi brani della Gazzetta dello Sport dell'epoca. Detto questo, però, poi sentiamo l'ascoltatore. Io sono in corso, sono appena Cormano. Chiedetemi perché sono in gorgo? Perché stanno venendo da Sion e da Creta tutti i tifosi del Sion e dell'Ofi Creta, che non ci credono che Gattuso, loro ex allenatore, sia il nuovo tecnico del Milan. Stanno tutti scendendo giù per verificare di persona che sta accadendo veramente. Ecco. Marino, il tuo amico Turrini è una carogna, posso dirlo pubblicamente. Amico Turrini è un genio, dai, lascia stare. Un grande giornalista, un grande affabulatore. Gli ricordo che in Joshua Tree c'era anche What to the Water. What to the Water? Lo dico perché non vorrei che, come dire, le scelte del Milan, lo dico con un affetto enorme nei confronti del prescelto, non portassero tutto a mare, speriamo bene. No, comunque a Creta, i pescatori di Creta che andavano alle partite dell'Ofi sono abbastanza perplessi su questa soluzione, però io sono convinto che il vecchio Ringo, spinto dall'auspicio dell'ex presidente Berlusconi, che dopo averci proposto il generale dei carabinieri Gallitelli, no? Per future, adesso ha detto tutti per Gattuso, il Milan vincerà Benevento. Ecco, voglio darvi questa notizia dalla conta della prima. Dove Gattuso troverà De Zerbi, con cui l'ultima volta che si è visto ha fatto cazzotti. Va bene, anche questo fa parte della storiografia classica. Maurizio, buongiorno, vuole aggiungere qualcosa a questo consesso? Non è video di Maurizio. No, ma nemmeno io, a dire la verità. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, io volevo semplicemente dire questo. Che Bartoletti e Turrini sono dei grandi, cosa vuole dire? Volevo semplicemente dire questo: c'è una costante in tutti i casi quando si esonera un allenatore. La costante è che non si capisce mai di chi è la colpa. Nel caso specifico non si capisce se tutti questi giocatori li ha comprati Mirabelli di testa sua, se li ha presi insieme con ascoltando l'allenatore. Ecco, in questo caso nessuno si prende la responsabilità. Questa è una costante, senza parlare poi della nazionale. La nazionale, no. Chi ha scelto? No, ma la colpa sappiamo benissimo, è figlia voi giornalisti non aiutate a chiarire queste cose. Noi non lo so, sì è vero, siamo colpevoli di tutto, anche per del fatto che oggi su Milano c'è un tempo così così. Marino, la colpa, poi loro sono grandi giornalisti, ha ragione, è colpa di Turrini che è un grande curatore delle collezioni della figurine Panini. E certo. No, ma io vorrei dare ragione all'amico che è intervenuto, perché noi lo sappiamo benissimo, l'abbiamo anche detto, Ventura si è nominato da solo. Allora certo, qui bisogna che gli italiani se ne facciano una ragione, perché Malagò aveva detto che era stato Lippi, Lippi ha detto che lui non c'entrava, Pavecchio ha detto che lui passava di lì per caso, stava ascoltando il vecchio album degli U2 che gli aveva mandato Marino Bartoletti con Dedica, si era distratto, insomma non si capisce. Alla fine della fiera l'ascoltatore ha ragione, no, nessuno sa come sia potuto accadere quello che ci si è materializzato. Ma guarda, dando la colpa ai giornalisti, non sbagli mai, no Marino Bartoletti? Quante volte ti sei sentito dare la colpa per qualcosa? Manco fossimo il Monsieur Malossel in persona, cioè il capo espiatorio di professione, ma va bene così, Marino, professore. Ma se ti dirò che qualche volta qualche colpa l'abbiamo anche avuto, sinceramente. Però in questo caso, ripeto, la colpa può essere solo riconducibile a Torrini, perché è un amante come me, d'altra parte, degli album delle figurine Panini, ed è abbastanza evidente che esiste un grande album di figurine al quale Mirabelli, posso dire una cosa politicamente scorretta, di cui io non sapevo quasi nulla prima che arrivasse. Io neanche, anche io. Io capisco che i curriculum, anzi i curricula, come dicono quelli che hanno studiato latino, quorum ego, cioè fra i quali anch'io, abbiano ormai una parte assolutamente poco rilevante nelle storie delle persone. Però devo dire che al Milan una volta ci si arrivava avendo fatto, dico ancora in latino, un cursus honorum leggermente diverso. Allora sì, sarà anche in questo caso colpa dei giornalisti, sarà colpa di Turrini che pubblica troppi album e troppe mostre di figurine, però secondo me io ho la sensazione che questo Milan sia stato fatto aprendo delle pagine a caso, mettendo un dito in una pagina dicendo voglio questo, chiunque sia questo, voglio quell'altro, chiunque sia quell'altro. Allora forse qualche colpa c'è, a meno che, come dire, i cinesi non siano pratici di album di figurine, perché poi dobbiamo anche parlare comunque della grande madre, della grande genesi di tutto quello che sta accadendo accanto al Milan, in un allontanamento di un allenatore che è andato via con la macchina rossa, se ti può consolare Turrini. Meno male, anche se era una Volvo per la verità. Beh, non sottilizziamo, dai. Ma è una macchina svedese, dobbiamo stare attenti a queste cose. Ma però tu lo sai che la Volvo è stata comprata anche quella dai cinesi a suo tempo. E quindi è tutto in con famiglia. La differenza, però, che scusate, i cinesi che comprarono la Volvo, almeno si sa chi sono. I cinesi che hanno comprato il Milan, se uno legge il New York Times, rimane un attimo perplesso. Però volevo spezzare una lancia per Mirabelli. Sì, anche dalle parti di Čeferin, lui e il suo entourage sono un filo perplessi, ma questi sono fatti loro, no? Come ben sappiamo, tanto poi è colpa nostra. Li abbiamo inventati perché, noi, Marino, questi cinesi. Io pensavo che Mirabelli fosse appunto il Mirabella che lavorava con Arbore. Ma che attualmente fa Elisir, Leo. Sì, ma c'era una trasmissione fantastica che ricordiamo solo tu e io, Banfi, Arbore e Mirabella, che si chiamava Aspettando Sanremo. Certo. Vinta avesse la sigla, è perfetta per il Milan, perché il ritornello faceva che ne parliamo, far, che stiamo a giudicare, eccetera, eccetera, eccetera. Se la trovate questa trasmissione, conferma di essere datemi un minuto, giusto il tempo del traffico, e vediamo se riusciamo a fare questa magia. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. Voi che dite che... Voi che dite la musica è bella, la musica è brutta, chissà chi lo sa. Le parole sono sempre le stesse, le note sono sette, ma che ci vuoi fare? Preferite quel ritmo incalzante che è tanto assordante che non fa parlare? Ho un motivo con più melodia che in compagnia potete cantare. Sì, che l'abbiamo fatto. Lo possono cantare degli brutti, cospetto di due maestri assoluti del giornalismo italiano, Marino Bartoletto e Leo Turrini, modestamente noi diciamo, io Ferronato e De Luca, non siamo mica qui, come dico, una formigine a pettinare le bambole. Correva l'anno 1990, si chiamava il caso Sanremo. Sai chi eseguiva questo brano, oltre ai riconoscibili Panfi, Arbore, i Campagnoli Belli, capitanati da Stefano Palatresi, dove il tastierista era Sergio Cammariere, pensa un po'. Ma dai! Sì, penso un po'. Ragazzi, nel caso vi fosse sfuggito, non sapeva neanche Turrini questo. Scusate se ve lo dico, ma Mario Bartoletti è l'autore del famoso motto, no? Meglio solo Bobby che mal dei Primitives accompagnato, hai capito? Perché lui sa tutto su questo mondo. Leo, a me lo dici? Bobby solo a mal dei Primitives, che erano due giocatori che peraltro Fassone e Mirabello non hanno comprato l'estate scorsa, erano sul mercato, potevano essere opzioni interessanti. Bobby e mal, ma evidentemente non c'erano abbastanza. No, non c'erano abbastanza quattrini per me. D'altra parte, a me lo dici, diciamo, Mario Bartoletti è per me, insomma. Ma quando mal cantò a Sanremo in coppia con Luciano Saioli, poi ci faremo una trasmissione su questo. Anche 2, 3, 4, 5. E anche quando Pippo Baudo osò, eravamo negli anni 80, inserire nel girone delle nuove proposte Claudio Villa e Orietta Berti, che è un po', voglio dire, come il Milan di oggi quando giocano Montolivo e non voglio dire Bonucci per non infierire, insomma. Ma siamo lì, lo standard è quello, ecco, ci siamo capiti, ma ci pensa. Se un marziano arriva sulla Terra e si collega con questa trasmissione in questo momento, Si diverte come un matto. Carlo Genta deve rendere conto delle persone che invita. Ma io, ma volentieri, ma con grande onore, devo dire, con grande onore rendo conto al pueblo italiano e internazionale e a tutti i marziani dell'universo. Ma signore, io sono indeciso se... E questo lascio alla vostra intuizione, a quella di Marino Bartoletti, poi Leo ovviamente farà il cannibale come al solito. Marino, preferisci parlare della rossa di Maranello o di De Rossi, capitano della Roma, maltrattato anche dal popolo giallorosso in maniera, tu che frequenti con profitto peraltro, con intelligenza i social, avrai visto in maniera... Beh, la parola che mi viene è pazzesca, un'altra è volgare, un'altra è folle, un'altra non mi viene a dirti la verità, e questo è di Ostia e quindi è un tamarra, un buzzurro, è un pazzo, è un criminale. Io di fronte a queste cose sinceramente mi arrendo, però scegli tu, De Rossi o Rossa? La cosa di De Rossi mi ha molto intristito, devo dire, perché io ho una considerazione straordinaria per questo ragazzo, per alcuni comportamenti che ha tenuto quasi sempre fuori dal campo, ma anche in campo naturalmente. Lui doveva ritirarsi imbattuto, secondo me, dopo essere salito sul pullman della Svezia a chiedere scusa. Bravo. Per conto del pubblico di San Siro che aveva fischiato l'inno svedese. Devo dire che quando si parla dei mali del calcio, qualche riflessione anche su questa maleducazione, le vogliamo chiamare piccole cose, non sono più piccole, vuol dire che veramente allo stadio ci si permette quello che i nostri genitori ci prendevano schiaffoni se soltanto l'avessimo pensato. Quindi forse era il momento che, come Buffon, anche se non abbiamo capito se Buffon si è ritirato o no dalla nazionale, perché ha detto che vuole giocare fino a 60 anni, quello era il momento di ritirarsi, come dire, moralmente imbattuto. Che cosa sia accaduto a questo ragazzo, che per la verità ha già avuto 3-4 episodi del genere in campo, io non lo so. Scusami, però io citavo Zidane, la testata Materazzi è fin troppo facile, agevole, se la ricordano anche dalle mamme e i bambini dell'asilo, è storia, no? Anche questa è storia contemporanea. Però anche Zidane che passeggia su un giocatore dell'Arabia Saudita o che ne fa altre 3 o 4, Frankie Rijkaard dello sputo a Föller, ma sto citando a memoria, non mi sono preparato, sì, come Marino mi avrebbe suggerito. È abbastanza recidivo, Carlo, devo dire. Ma anche quelli, anche sezionato, ci sono 2 o 3 momenti del rallenti, non c'è il VAR purtroppo su questo tipo di, come dire, derive psicologiche, ma lui che dopo aver colpito il suo avversario si butta a terra e finge di essere stato colpito, sono veramente quelle scene che fanno male a chi, per esempio come suo padre, insegna il calcio ai più giovani. So. Allora io mi aspetterei veramente che De Rossi, ripeto, a cui va la mia stima quasi incondizionata, anche la mia, avesse il coraggio di andare non a Teleroma, o come diavolo si chiama, Roma Channel, e scegliere casomai l'interlocutore giusto, il palcoscenico giusto, e dicesse: ragazzi, esiste un piccolo Mr. Hyde dentro di me, ho già dovuto farci conti 2 o 3 volte, come faceva Mazzone con suo fratello, vi ricordate, no? Io vi invito a guardare queste cose, casomai le guardiamo assieme, come in una terapia di gruppo, e sappiate che queste sono le cose che non mi appartengono e che veramente da oggi prometto di non fare più. De Rossi non può permettersi che la sua carriera di giocatore straordinario, anche di uomo straordinario, perché ha vissuto esperienze dolorose da cui si è emancipato, possono essere macchiate da queste cose, purtroppo reiterate. Questo mi ha veramente addolorato. Anche Totti ci ha lasciato un po' di 4 anni, no. Lo so, però anche Totti, per esempio, ci ha lasciato qualche spot di questo tipo, pur essendo Totti, no? Turrini, così vi saluto tutti e due, purtroppo. No, beh, ha detto benissimo tutto Marino, credo che non ci sia da aggiungere nemmeno un fiat, come diceva Nosotti quando studiavamo lo latino in treno. Io potrei invece parlarvi non di De Rossi ma della Rossa, per dirvi: guardate che vi facciamo aspettare da 10 anni e non è detto che l'undicesimo sia quello buono per spezzare il digiuno. E quindi vi lascio con questa malinconica riflessione, con questa botta di... Mentre tutti i tifosi del Creta, del Sion, si stanno avventando su Carnago Milanello perché non ci credono ancora che Gattuso sia l'allenatore di una delle squadre più titolate del pianeta. La squadra più titolata al mondo. Ragazzi, io vi ringrazio per questo regalo. Io vi lascio dicendo che Eulalia Torricelli di Staforlì prevede un personaggio che si chiama De Rossi Giosuè. Peccato che non abbiamo più il tempo per ascoltarla, ma riprenderemo da lì, Sì, guarda, io proporrei di istituzionalizzare questo momento, questo ne parleremo, ma è un regalo che dovete farmi voi, Marino Bartoletti e Leo Turrini. Grazie Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Domani alle 2 siamo qui. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.